pensi di essere arrivato, poi ti volti e ti accorgi che sei ancora fermo a metà strada, proprio dove non volevi te. Quando perdi qualche cosa a cui tenevi molto e lì capisci che un altro sogno se n'è andato e intanto si è portato via un pezzo di te. Quando gli equilibri si disfanno e tutto cambia intorno a te, quando fuori tutto sembra fango, se ti guardi bene dentro è lì che inizia a nascere un altro te, una nuova vita. Dubbi mai, ti trovi a un tratto in mezzo alla bufera e non sai più chi sei né dove vai. Quando hai corso troppo controvento, ti fermi col fiatone e poi gli altri vanno a un ritmo troppo forte, tu di fiato proprio non ne hai. Quando le certezze se ne vanno e tutto crolla intorno a te, quando sei già troppo solo e stanco, se ti guardi bene dentro è lì che inizia a nascere un altro te, una nuova vita. Arrivare c'è un altro tempo.